Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Dovete sapere che occasionalmente, in modo del tutto imprevedibile, si verificano da qualche parte dell'oceano delle improvvise esplosioni di alghe. Parliamo di piccolissime alghe monocellulari che sembrano quasi apparire dal nulla. Miliardi di tonnellate di biomassa in pochi giorni che colorano l'acqua su ampie zone dell'oceano, visibili persino da satellite. Insomma, le ragioni di queste improvvise fluorescenze sono ancora largamente inspiegate, ma ci ricordano l'incredibile capacità di replicare che hanno questi piccoli esseri, responsabili di una frazione considerevole della fotosintesi sulla Terra e anche quindi della produzione di ossigeno e del sequestro della CO2. Insomma, in condizioni opportune le alghe monocellulari sono in grado di moltiplicarsi anche più volte al giorno. Ed ecco perché rappresentano una frontiera di grande interesse per il settore dei biocombustibili, che è sempre in cerca di biomassa, di nuove biomasse da sfruttare, ovviamente biomasse dalle caratteristiche opportune. Ed è proprio su questo obiettivo che si è focalizzato l'accordo quadro di cooperazione scientifica sottoscritto dall'OGS, che è l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, e l'Università Tecnologica Nazionale di Mar di Plata in Argentina. Quindi l'individuazione dell'alga giusta e delle condizioni ottimali per crescerla. Ne parliamo con Marina Cabrini, biologa e prima ricercatrice dell'OGS, che è responsabile anche del progetto. Buonasera Cabrini. Buonasera. Allora, senti, pensavo a un titolo per la sua ricerca, sono indeciso tra la ricerca dell'alga perduta oppure piccole alghe ingrassano. Lei cosa preferisce? Beh, mi piace molto la fantasia, che apprezzo sempre, però diciamo che non si sa ancora tutto e quindi noi siamo alla ricerca, diciamo, della migliore alga o dei migliori ceppi adatti proprio alla produzione di biomassa utile a fini industriali e poi per la produzione anche di biodiesel. Allora, quindi il vantaggio di queste alghe, abbiamo detto del grande loro capacità di riprodursi rapidamente, ce ne sono altri? La capacità inoltre di non togliere piante che servono all'alimentazione e poi che sono facilmente ed economicamente vantaggiose. Allora, quest'alga che state cercando, proviamo a fare un po' l'identikit. Quali sono, diciamo, le caratteristiche ideali che dovrebbe avere? Beh, intanto deve essere nuda, non deve essere teccata. Ci sono le alghe teccate che nell'estrazione poi degli acidi grassi, ecco, darebbe fastidio. Quindi noi abbiamo già eliminato decine di migliaia di alghe. Quindi teccate è una sorta di guscio intorno, rigido, sì, che non si riesce a rompere. Sì, sì, sì, d'accordo, sì, liceo, cellulosico, eccetera. Dopodiché, diciamo, deve appunto contenere alti contenuti di acidi grassi, mm-hmm, perché sono quelli che andiamo alla ricerca da un punto di vista sia qualitativo e quantitativo. Quindi sono le molecole da cui poi si ricava il biodiesel, questi, esatto, acidi grassi, che sono degli oli praticamente, no? Esattamente. Gli oli vegetali, praticamente, esatto, che li tirate fuori da lì, invece, esatto, che dalle olive. Sì, sì, vengono, non possiamo dire spremuti, ma comunque vengono estratti con delle tecniche appunto chimiche. Dopodiché noi vorremmo utilizzare ceppi naturali, non geneticamente modificati. Siccome la natura dispone di decine di migliaia di queste specie, beh, sicuramente alcune sono già note in bibliografia, soprattutto quelle utilizzate in acquacoltura, ma oltre queste ce ne sono altre e altre ancora da identificare come ciclo vitale. Quindi direi che la ricerca ha tanto ancora da dire. Quindi, ecco, insomma, quest'alga deve essere facile da spremere, mettiamola così. Sì. Deve avere un ciclo vitale molto rapido e probabilmente avere bisogno di pochi nutrienti, da quello che ho capito. Ecco, questo è un altro punto. E poi deve contenere tanti acidi grassi. E questo lei ha toccato un altro punto, che è proprio il mezzo di coltura. Siccome sono alghe, vivono nell'acqua, però non basta l'acqua, ci deve essere un mezzo. Mm-hmm. Il mezzo deve essere appunto ricco di nutrienti. Questi nutrienti noi li possiamo anche ricavare, per esempio, gratuitamente, direi quasi, dalle acque reflue di una zootecnia oppure di una città, quindi liquami urbani, oppure anche scarti di inceneritore, in modo da poter poi su larga scala contenere proprio quelli che possono essere, da un punto di vista economico, i costi di produzione del mezzo acquoso al fine di coltivare l'alga. Dall'altro poi ottenere un mezzo minimo di nutrienti, ma che abbia anche caratteristiche non inquinanti, perché quest'acqua poi bisogna in qualche modo eliminarla. Dobbiamo separare quella che è la biomassa, diciamo così, da spremere, da quello che è il mezzo, il più possibile compatibile con l'ambiente. Ecco, quindi realisticamente dove si andranno a realizzare un domani queste centrali da produzione di acidi grassi per fare il biodiesel dentro, per esempio, nei sistemi di depurazione? Per esempio, oppure anche vicino delle industrie che devono in qualche modo contenere le quote di CO2, perché, come lei ha detto bene all'inizio, sequestrano l'anidride carbonica. Che voi pensate proprio di far gorgogliare in mezzo a queste alghe e dargliela in pasto, insomma, in modo tale che possano abbattere, per esempio, la CO2 prodotta da dei cicli industriali? Assolutamente. Assolutamente. Posso dire con una banalità, due piccioni con una fava: da un lato noi sequestriamo la CO2 delle industrie oppure delle centrali, utilizziamo, diciamo, il calore che può essere residuo, perché abbiamo anche la temperatura che è sempre il primo dei fattori ambientali per poter far crescere nell'acqua queste alghe, e poi soprattutto contenimento dei sali nutritivi. Questo utilizzo delle alghe per la produzione dei biocombustibili è uno scenario molto lontano o si può vedere? Direi che ci sono già degli impianti esistenti al mondo, in America, in Giappone, in Spagna, quindi direi che ci sono già degli impianti, però non si è ancora, diciamo, a livello economico risposto a quelli che sono anche i contenimenti dei costi. Grazie Marina Cabrini. La ringrazio per l'opportunità che mi ha dato di parlare di questo argomento. Bene, prima di concludere vi ricordo che domani in allegato al Sole 24 Ore uscirà il rapporto Energie Rinnovabili, realizzato in concomitanza con Solar Expo, che invece partirà il giorno 4. Noi domani rimaniamo sul tema dei biocombustibili, ma questa volta torniamo sulla terraferma. Buona serata.